Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. I mutui stanno ricominciando a costare sempre di più, eppure molti di voi si chiedono come mai, visto che i tassi di interesse in Europa sono ancora molto bassi, sono all'1,5% e a quanto pare oggi la Banca Centrale Europea non li toccherà. Anche il mercato interbancario appare tranquillo, comunque non è assolutamente schizofrenico come tra il 2008 e il 2009, nonostante le ritrovate difficoltà delle banche a fare raccolta, ma i costi dei finanziamenti a lungo termine stanno lievitando. Che cosa sta succedendo? Siete andati di recente in banca a chiedere se vi finanziano l'acquisto della casa dei vostri sogni? Che cosa vi hanno risposto? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Probabilmente vi hanno raccontato che lo spread sul mutuo è un po' più alto degli ultimi mesi, perché lo spread non è solo quello tra BTP e Bund ad ossessionarci, ma anche quello applicato dalle banche appunto ai finanziamenti a lungo termine. E allora raccontateci un po' se siete andati a chiedere un mutuo, che proposta vi hanno fatto e come bisogna impostare in questo momento la ricerca di un finanziamento in un periodo così critico, cercando di ottenere le condizioni più vantaggiose. Da tempo sta riesplorando questo mondo il nostro Vito Lops, collega del Sole 24 Ore. Vito, ciao, bentornato. Ciao. Tra l'altro proprio di recente ha sul suo blog pubblicato un pezzo in cui parla di spread assolutamente schizofrenici. Alcune banche italiane addirittura stanno applicando remunerazioni, chiamiamolo così, oltre il 4%, assolutamente fuori di mercato. In media il mercato adesso chiede qualcosa intorno al 2%, ma naturalmente ci faremo raccontare proprio anche cosa propone l'offerta di mercato in questo momento da Roberto Anedda, Mutui Online. Bentornato e buongiorno Roberto, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, vi ho già ricordato il numero verde per intervenire, che è 800 24 00 24. Potete utilizzare anche le altre due alternative a vostra disposizione, gli sms al 349 238 6666 o l'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Allora, in qualche maniera parliamo anche di banche, quelle banche che i governi europei sarebbero pronti a ricapitalizzare se ce ne fosse bisogno. Di bisogno ce n'è, a giudicare appunto dal lotto volante a cui i titoli bancari sono stati sottoposti nell'ultimo periodo. Su questa prospettiva di massicce iniezioni di liquidità da parte dei governi, le borse hanno brindato negli ultimi giorni, stamattina continuano a farlo. Parigi oggi sale del 2,24%, Francoforte più 2%. Londra più 1,37, Milano più 1,90 sul FTSE MIB. Per dovere di cronaca diamo anche conto dell'andamento del titolo Apple a Francoforte, che perde il 2,7% circa. Naturalmente l'addio di Steve Jobs pesa, lo dicevamo prima a microfoni spenti con i nostri ospiti di questa mattina, probabilmente sulle quotazioni si risentirà l'effetto della mancanza di Jobs nel lungo periodo, perché sicuramente mancherà una visione strategica sul futuro molto originale che era quella in grado appunto di dare il fondatore di questa grande azienda. Andiamo a vedere però Piazza Affari cosa succede. Oggi stanno prendendo quota, prendendo il volo, i titoli legati alle materie prime. Tenaris più 5, Prismian più 4,76, Fondiaria ritorna a conquistare posizioni più 3,83% per il gruppo assicurativo e oggi ancora in recupero i titoli della Galassia Fiat, Texor più 3,80, Fiat SPA più 3,17, Fiat Industrial un po' meno, sta guadagnando l'1,81%. Ricordiamo anche che dopo che Moody's nei giorni scorsi ha declassato il debito italiano, ieri Moody's è intervenuta rivedendo a ribasso il giudizio sui principali gruppi italiani legati allo Stato e il taglio di rating è toccato a Meccanica, Terna, Adeni, Enel, Poste Italiane, ma anche ad Intesa San Paolo ed Unicredit. Nessuno di questi titoli oggi, a parte Poste che non sono quotate, risente di questo taglio. Vi segnalo che Unicredit guadagna il 3%, Intesa San Paolo più 2%, Enel più 1,96%. Eni è tra i titoli che guadagna meno, comunque positiva per lo 0,3%, Eterna più 1,77%. Euro su dollaro a 1,3352, il tema del giorno è anche la riunione della Banca Centrale Europea, l'ultima riunione del consiglio direttivo della BCE sotto la presidenza di Trichet, riunione che peraltro non si tiene a Francoforte ma a Berlino. Attendiamo la decisione sui tassi di interesse alle 13.45, poi alle 14.30, consueta conferenza stampa appunto della Banca Centrale Europea. Tra l'altro poi Trichet incontrerà Angela Merkel, Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, una bella giornata appunto di appuntamenti a quanto pare. Allora, lasciamo stare adesso la borsa per andare invece al tema di questa mattina. Ritorniamo sui mutui che a quanto pare stanno ricominciando a diventare particolarmente costosi. Non sono tempi facili per chi vuole accendere un mutuo. Con la crisi le difficoltà crescono, facendo ormai rimpiangere l'epoca in cui il problema si limitava al dubbio amletico della scelta tra tasso fisso e variabile. La situazione economica rende sempre più difficile l'erogazione di un prestito da parte della banca e la causa non è solo la preoccupazione che il cliente non sia in grado di restituirlo. Con il crescere della tensione sui titoli bancari e l'incertezza che circonda il debito pubblico, lievitano infatti per gli stessi istituti i costi necessari a rifornirsi della liquidità necessaria a finanziare le proprie attività. Le banche tendono così ad aumentare gli spread, ovvero i ricarichi che vanno ad aggiungersi agli interessi, un'impennata solo in parte arginata dal livello, in questo momento basso, dei tassi di riferimento europei, a cui si aggancia il calcolo del prestito. Gli spread, in molti casi, arrivano infatti a superare abbondantemente il 2%, con una crescita dello 0,30% per i tassi fissi e dello 0,10% per i variabili da giugno ad oggi, che si farà senz'altro sentire sui mutui erogati nei prossimi mesi. Il percorso che porta alla scelta e all'ottenimento di un mutuo diventa quindi un rompicapo sempre più duro da risolvere, con la variabile più influente rappresentata dallo spread. Tutto dipende infatti dalle politiche di ciascun istituto, che possono essere anche molto diverse tra loro. Conviene procedere per esclusione e cercare con pazienza e lungimiranza l'offerta che, al netto delle criticità e degli eventi, permetta di trovare le condizioni più vantaggiose. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre domande. Per intervenire in diretta ci potete anche scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Da settimane siamo ossessionati dallo spread fra BTP e Bund, cioè dal differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco. Adesso comincia di nuovo ad ossessionarci anche quest'altro spread. Roberto Anedda, facciamo un po' anche noi l'esercizio che da qualche settimana fa il Sole 24 Ore, che presenta il dizionario dei termini economici. Spieghiamo che cos'è questo spread che le banche applicano anche ai mutui. Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche, oltre al tasso di interesse, devono essere remunerate. È così semplice la definizione di spread, la remunerazione della banca per concedere un prestito? Sì, in realtà sì, spread è una parola inglese che significa differenza, margine, ed effettivamente è il margine, lordo, diciamo così, della banca, quello che rappresenta ciò che la banca può guadagnare da una determinata operazione. Il mutuo, ma potrebbe essere anche un prestito o un'altra tipologia di finanziamento, e ovviamente lordo perché rispetto a questo costo poi la banca dovrà detrarre tutti anche i propri costi operativi, e ovviamente si aggiunge a quello che invece è l'indice di riferimento usato per il calcolo del tasso del mutuo, che nel caso dei tassi variabili è un indice Euribor, cioè misura il costo del denaro nel breve termine. Nel caso invece dei tassi fissi si fa riferimento agli indici cosiddetti IRS, che ancora una volta rappresentano il costo del denaro, ma nel lungo termine, quindi per periodi anche pluridecennali. Dalla somma di quest'indice, Euribor IRS più spread, si ha il tasso finale del mutuo. In queste situazioni, come ben spiegava il vostro servizio d'apertura, quando il denaro anche per le banche costa di più, quindi a prescindere da quello che è il costo o il valore dell'Euribor o dell'IRS, il costo che le banche pagano sul mercato per rifornirsi, diciamo così, di liquidità, di denaro, è diverso da questi indici. Mm-hmm. Quello è un indice indicativo, ma poi nel prestare i soldi anche alle banche, il mercato stesso fa una valutazione di chi sta chiedendo il prestito, e dato che le banche hanno molti titoli di Stato italiani nei propri portafogli, i quali a loro volta, se aumenta l'altro spread, quello BTP Bund, diminuiscono di valore, automaticamente condizionano anche il valore delle banche. Quindi, in poche parole, il mercato vede come meno, tra virgolette, affidabili le banche italiane o quelle che hanno questi titoli di Stato nel loro portafoglio, e chiedono un sovrapprezzo per potergli prestare dei soldi. E quindi, se il denaro costa di più per le banche, inevitabilmente quando le banche lo stesso denaro poi lo prestano ai propri clienti nelle varie forme di finanziamento possibili, devono operare, se non vogliono, qualche ricarico, esatto. Chiamiamolo così. Tra l'altro, ho detto all'inizio, adesso dobbiamo ricominciare a parlare di spread sui mutui, ma in realtà ci eravamo abituati a parlarne diffusamente nel momento più difficile della crisi recente fra il 2008 e il 2009, quando appunto, siccome il mercato interbancario era schizzato, gli Euribor erano volati alle stelle, l'unico modo che molti sottoscrittori di mutui, soprattutto a tasso variabile, avevano avuto in quel periodo per alleggerire il peso della rata mensile era stato proprio quello di andare a rinegoziare gli spread che avevano con le banche. C'erano riusciti, chissà che adesso appunto invece non si debba parlare di altre tecniche di rinegoziazione, visto che gli spread volano. Insomma, lì bisogna trattare molto con il direttore di banca per farsi applicare in assoluto il migliore, almeno secondo la tendenza di mercato. Vito Lops, dove hai trovato la banca che applica adesso uno spread al 4-4,5%, che è, posso dirlo, un tasso indecente? Sì, infatti, perché bisogna fare una specificazione su questo tema, nel senso che sui fogli informativi che sono pubblicizzati sia nello sportello, ma dovrebbero essere pubblicizzati anche sui siti internet degli istituti di credito, c'è l'indicazione del tasso massimo applicabile, quindi in un certo senso sono poco affidabili, perché nel senso anche quando le banche applicano spread bassi in linea con l'1% si riserva il diritto di alzarlo, in sostanza ci sono questi. Invece, andando poi a verificare l'offerta nel dettaglio, chiedendo per l'appunto singolarmente agli istituti, è emerso che ci sono alcune banche nel dettaglio della Popolare di Vicenza che va oltre il 4% in questo momento con lo spread. Su un mutuo tasso variabile, per capire? Sì. Quindi l'1,5 ammettendo di tasso base di riferimento, poi l'Euribor adesso è anche un po' più alto, poi bisogna vedere quale prendiamo a riferimento, un mese, tre mesi e quant'altro, più il 4%, cioè un mutuo a tasso variabile arriva a costare oltre il 6? Sì, diciamo che questa è, diciamo, una tecnica che in teoria molte banche utilizzano, hanno utilizzato in passato per defilarsi elegantemente in certi archi temporali dal mercato dei mutui. Cioè non scompare il prodotto dal bouquet dell'offerta, però il tasso è talmente più alto rispetto alla media del mercato che quindi tecnicamente la banca si elegantemente defila dal mercato. Il deterrente per scoraggiare il cliente dal chiedere il mutuo, incredibile. La novità di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, è che questa soglia, diciamo, che serve un po' per capire se la banca non vuole tecnicamente concedere mutui, si è spostata verso l'alto. Prima si poteva definire questa soglia intorno al 2,5% ma anche 2%, adesso invece siamo, visto che la media per quanto riguarda i tassi fissi ormai intorno al 2%, la soglia che indica un po' l'intenzione della banca di non erogare mutui è intorno al 3% più o meno. Quindi se lo spread che la banca ci propone tra il 2 e il 3 significa che la banca in qualche maniera questo finanziamento ce lo vuole dare. Se ci propone uno spread oltre il 3% è come dire guarda vattene, come ci ha scritto un ascoltatore, ha chiesto un finanziamento e gli hanno suggerito di andare a zappare l'orto. Siamo ritornati a Salva Danaio, oggi ci occupiamo di mutui di nuovo, aspetta che non riesco ad alzare le cuffie, perché abbiamo notato, insieme a me molti giornalisti che ne hanno scritto diffusamente in questi giorni su vari quotidiani, che appunto i finanziamenti a lungo termine per l'acquisto della casa dei nostri sogni stanno ridiventando di nuovo molto onerosi. Eppure direte voi, come mai i tassi sono ancora bassi, il mercato interbancario non è schizofrenico come nella fase acuta della crisi tra il 2008 e il 2009, anche se adesso non è che sia una fase poco acuta. Il tema è che le banche fanno difficoltà a fare raccolta, fanno difficoltà a finanziarsi tra di loro, quindi il mercato interbancario è tranquillo, e come fanno a remunerarsi le banche? Aumentano appunto gli spread, adesso io l'ho detto in maniera molto semplicistica, però nella sostanza anche questo è un segnale appunto di ritorno ad una sorta di, un altro brutto termine in inglese, credit crunch. In sostanza appunto il mercato bancario si sta di nuovo paralizzando, ma questo lo sapete bene perché lo stiamo raccontando anche nelle nostre altre trasmissioni. Oggi probabilmente la Banca Centrale Europea annuncerà un maxi piano di finanziamento per i prossimi appunto 12 mesi per il sistema bancario, si sta discutendo di come ricapitalizzare le banche, e tutto questo appunto si traduce anche come dire nelle problematiche delle famiglie che vanno a chiedere un mutuo e si sentono appunto fare delle proposte molto onerose, al punto tale che la proposta onerosa si traduce a volte in una non volontà della banca appunto dell'erogare il mutuo. Detto questo, ci sono anche altri aspetti del problema, lo stavo notando fra i messaggi che ci stanno arrivando. risaluto Roberto Anedda e Vito Lopse che stamattina sono con noi, è che magari la banca accorda e delibera il mutuo da erogare ad una famiglia, stabilisce uno spread, quindi un costo per questa operazione, due mesi dopo si va a rogitare, lo spread è improvvisamente lievitato. Roberto Anedda, è un atteggiamento molto poco corretto da parte della banca, però mi pare che è una pratica diffusa di fronte alla quale non si possa far nulla. Sì, diciamo che bisognerebbe cercare di prevenirla da parte del cliente, cercando di farsi garantire e specificare lo spread che verrà applicato al rogito, al momento del rogito, e quindi anche se in un momento differente e lontano rispetto a quello della delibera. Posso interromperti, certo. Roberto? Sai perché? Perché il signore che stavo leggendo, di cui stavo leggendo il messaggio, in realtà è al telefono, anche Roberto da Modena. Non so se è lo stesso Roberto che ci ha anche scritto al 349-238-6666, però mi pare che la storia sia la stessa. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti. Sì. Sentite? Sì, la sentiamo. Noi stavamo proprio raccontando questa cosa, che praticamente sì. Le hanno cambiato lo spread in corso d'opera. Mi hanno aumentato dell'80% circa, in poche parole. Dello 0,8%, sì. Sì, dell'80%, sì, dallo 0,8 sono passata all'1,4. Mm. In poche parole, a maggio avevo la delibera col mio Balzarotto delle ottime condizioni, mi hanno chiamato dicendomi le situazioni sono cambiate, abbiamo bisogno di fare liquidità, e me l'hanno portata all'1,4%, quindi io mi sono dovuto prendere in saccoccia questo valore, diciamo. E tutto sommato non è neanche un brutto spread, Roberto, peraltro. No, adesso ecco, no, se proprio vogliamo dirla tutta. Infatti mi hanno detto tu puoi andare in giro a guardare da qualsiasi banca, poi se trovi di meglio ti diamo anche una mano a passare ad un'altra banca. Infatti effettivamente non ho trovato di meglio e sono rimasto con questa banca, sì. Con le pieve nel sacco, con un buon spread però, Roberto, tutto sommato, anche se effettivamente, ma lo 0,8 credo che in questo momento sia qualcosa, Vito Lopse, di introvabile sul mercato sotto l'1%. È fuori mercato. Fuori mercato completamente. Roberto Anedda, ti ho interrotto poco fa. No, ci mancherebbe, ma insomma, quello che ci diceva anche l'omonimo Roberto conferma un po' la situazione. Purtroppo le banche in questi ultimi mesi, quindi a cavallo dell'estate, adesso inizio ottobre, si stanno vedendo cambiare lo scenario di mercato continuamente davanti agli occhi e effettivamente fanno spesso fatica anche a apprezzare adeguatamente i loro prodotti. E soprattutto in certi casi si trovano nella situazione o di dire al cliente non riusciamo più a farti il finanziamento perché altrimenti ci perdiamo, il denaro ci costa troppo e se ti finanziamo a un determinato spread andiamo in perdita, quindi non facciamo l'operazione, o altrimenti possiamo applicarti quest'altro spread. Roberto è sicuramente stato fortunato perché alla fine è riuscito ad avere uno spread che è quasi fuori mercato esso stesso e ai minimi ai quali si può al momento trovare un mutuo, perché meno dell'1,50, 1,60 ormai, soprattutto poi per i tassi variabili, perché per i tassi fissi si va anche un po' più su, è difficile trovare uno spread. In questi mesi il differenziale tra quelli che possono essere gli spread migliori sul mercato e quelli invece massimi che citava poc'anzi anche l'Ops, che magari sono solo previsti teoricamente in un foglio informativo ma che teoricamente la banca si riserva di poter applicare, abbiamo detto senza arrivare anche oltre il 4, ma ci sono diverse offerte di banche anche importanti oltre il 3%, vuol dire rischiare, a seconda con la banca con la quale si fa il mutuo, di pagare fino a 2 punti in più di spread. 2 punti in più di spread sono tantissimi soldi, perché tanto per fare un esempio, su un mutuo medio da 130.000 euro, quelli che si stanno chiudendo in questi ultimi anni, vuol dire tra 20 e 30 anni pagare 1.000-1.200 euro in più all'anno. Quindi sono veramente tantissimi soldi che vanno a incidere su una famiglia e, come dicevi tu all'inizio giustamente, lo spread, e dicevamo anche prima dell'inizio della trasmissione con l'Ops, lo spread diventa un costo fisso che tu non riesci più a cambiare, che ti porti appresso per tutta la vita del mutuo, a meno che in un più lontano futuro non riesci a cambiarlo con uno più basso, e quindi è un maggior costo che non hai modo di ridurre. Tanto è vero che il mutuo a tasso variabile lo abbiamo ribattezzato Vito Lops semifisso, quindi abbiamo coniato anche un nuovo termine, ma questa crisi veramente ci insegna ogni giorno termini nuovi e siamo anche in grado di inventarcene di altri. Tra l'altro vedo alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo delle citazioni in merito alla rinegoziazione del mutuo. Adesso, a prescindere da chi ha bisogno di rinegoziarlo perché magari ha perso il posto di lavoro, e qui ci sono piani di altro genere che sono stati introdotti negli ultimi 2 anni dal sistema bancario, il piano famiglie e tante altre cose ancora, il fondo di solidarietà appunto proprio per comunque cancellare temporaneamente la rata se non si riesce a far fronte a questo impegno. Mi chiedo chi in questo momento voglia rinegoziare il proprio mutuo se ha sottoscritto un finanziamento a lungo termine 3, 4, 5 anni fa, quando le condizioni erano diverse, ma adesso forse imbarcarsi anche in un'operazione di rinegoziazione, Vito, secondo te giova a chi? Ecco, diciamo che il forte aumento degli spread sta cambiando lo scenario anche per chi vuole, diciamo, cambiare il mutuo in corsa. Quindi la rinegoziazione è ovviamente molto più difficile, visto che, essendo una facoltà per la banca, non c'è davvero da ipotizzare che in questo momento non vada a peggiorare la condizione di partenza per quanto riguarda ovviamente il lato della banca. Per quanto riguarda la surroga, dato che di per sé già costa in più in termini di spread normalmente un mutuo di surroga rispetto a un mutuo standard, è difficile anche in questo caso ipotizzare una convenienza da parte di chi ha sottoscritto un mutuo in una fase pre-crisi rispetto a quella attuale. Definiamo la fase critica quella che va da luglio a settembre e nei giorni anche odierni, visto che c'è stato questo rimbalzo dello spread. Quindi chi ha sottoscritto un mutuo prima di luglio difficilmente troverà nelle offerte attuali di surroga uno spread più basso, quindi bisogna fare molta attenzione alla surroga. Tra l'altro, anche per quanto riguarda tutti gli altri mutui che presentano delle opzioni, come quelli col cap o anche il variabile rata costante, ne scriviamo oggi su Casa 24 Plus, in questo momento hanno delle grosse difficoltà, nel senso di per sé questi mutui costano già di più. In questo periodo, proprio perché devi pagare la protezione che ti offrono di fronte ad un possibile aumento futuro dei tassi di interesse. Sì. In questo momento in cui i variabili e i fissi standard costano di più, anche questi mutui non mantengono il gap di sovracosto, quindi a questo punto raggiungono soglie, come scriviamo anche oggi sul Sole 24 Ore, davvero molto onerose. Quindi in questo momento sottoscrivere un mutuo con cap può essere davvero un errore. Infatti, insomma, quindi tutto questo per arrivare a dire, lo ricordo ancora, che se vi è balenato in testa in questo momento l'idea di surrogare, di trasferire il vostro mutuo perché avete banalmente litigato con il direttore o per tante altre questioni ancora, a meno che non abbiate proprio una necessità insopprimibile, è meglio stare fermi, perché le offerte sul mercato non litigate con il direttore, magari date un'occhiata, ma vi accorgerete che magari le condizioni pattuite qualche anno fa sono drasticamente cambiate in questo momento. Per cui, a meno che, ecco, la questione è: manca un reddito all'interno della famiglia e dobbiamo alleggerire la rata per questo motivo, però ecco, se è una questione di moda, fatevela passare molto rapidamente, perché forse adesso non è il momento. Sentiamo Alberto da Firenze, a cui la banca ha detto il direttore vada a zappare l'orto, ma le ha detto proprio così? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, non è proprio la banca, io ho un piccolo negozio e ho chiesto alla banca, loro mi hanno indicato di rivolgermi al CNA della zona, il responsabile della zona che mi ha detto che mi merita. Ma aveva bisogno, Alberto, di un finanziamento di altro tipo, un mutuo per il negozio? Che cosa aveva necessità? Sì, un mutuo per il negozio, siccome il proprietario lo vuole vendere, io sono intenzionato a comprarlo, e appunto la banca non mi ha detto di rivolgere al CNA che mi può dare una mano, e lui, il responsabile, mi ha detto, ma anche per 10.000 euro mi ha detto che mi merita prendere un pezzettino di terra e zappare l'otto. Vabbè, il problema però adesso è che non ho neanche il pezzettino di terra. No, però Alberto ha sentito una sola banca, magari ne poteva anche trovare un'altra un po' più disponibile, quantomeno ad un dialogo. Sì, sì, ma appunto volevo denunciare il fatto che uno insomma responsabile degli artigianati ti dia di andare a zappare l'orto. Vabbè. Alberto, coraggio, provi ad esplorare altri sportelli, e se le dovessero rispondere nello stesso modo ce lo racconti, però magari forse non andare a zappare l'orto come questo funzionario della Confederazione degli Artigiani, ma comunque con gli spread schizofrenici è un modo indiretto per dire a qualche cliente forse è meglio se ti dai appunto all'agricoltura. spread schizofrenici, mutui sempre più alti, un po' di difficoltà per le famiglie che vorrebbero coronare il sogno di tutta la vita, che non è quello del matrimonio, ma magari comprarsi due stanze in qualche città italiana, ma non riescono a farlo adesso perché le banche respingono molto spesso al mittente queste richieste, con la scusa appunto che per loro è diventato difficile erogare questi finanziamenti, il costo del denaro è sempre più alto per loro e di conseguenza appunto non si riesce ad accontentare molta clientela, soprattutto poi figuriamoci se è una clientela che magari ha un profilo non completamente limpido, immacolato. Roberto Anedda, magari banalmente insomma i redditi sono in difficoltà in questo momento, famiglie che perdono il posto di lavoro, bisogna veramente essere pieni di garanzie prima di presentarsi in banca. Sì, sicuramente già da un anno e mezzo tutta la tipologia di prodotti come mutui considerati tra virgolette più a rischio da parte delle banche, come ad esempio i finanziamenti fino al 100% del valore dell'immobile, quelli indirizzati agli extracomunitari, a coloro che abbiano un reddito non costante o più contenuto, hanno subito una bella stretta. Il credit crunch che dicevamo prima ha cominciato ad attuarsi proprio su queste fasce che, per carità, rappresentano una quota piccola del mercato complessivo dei mutui, ma rappresentano comunque una fascia rilevante anche a livello sociale della popolazione. Adesso questi incrementi degli spread e questa maggiore difficoltà delle banche nell'ottenere liquidità a loro volta e quindi poterne avere a disposizione per i propri clienti rischia di ampliare ulteriormente la stretta, gioco forza, anche su chi magari può avere dei redditi un pochino più elevati, anche avendo due redditi in famiglia. Se gli spread salgono troppo, la rata diventa comunque un limite, perché poi la banca fa il calcolo di quello che è il peso della rata sul reddito. Mediamente abbiamo detto che non dovrebbe essere più del 30%, un terzo. Molte banche stanno ulteriormente restringendo questo limite, quindi si fermano magari anche al 25%, proprio per la situazione di incertezza, da un lato legata all'economia e alla banca stessa, dall'altro legata ai redditi. Per quello dicevamo prima, è fondamentale per chi sta cercando un mutuo in questo momento selezionare bene le banche, proprio perché andando alla propria banca, diciamo così, o alla banca sbagliata, solo una differenza di spread tra l'una e l'altra rischia di compromettere la possibilità di ottenere il mutuo stesso, proprio perché la rata sarebbe molto più alta, o se anche riesco a ottenerlo rischio di pagare veramente tanti soldi in più rispetto alla migliore offerta che potrei trovare altrove. Sentiamo ancora le testimonianze dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. È Claudio da Modena, un altro ascoltatore che da tempo sta cercando un mutuo. Con che esito, Claudio? Buongiorno, tanto complimenti per la trasmissione, che sono retorici ma è vero, l'ascolto tutti i giorni. Grazie, quindi. Claudio, ci dica tutto. Io ho iniziato la caccia al mutuo prima dell'estate tramite i vari siti, poi tra l'altro Mutui Online è proprio quello lì. Comunque avevo trovato anche la banca, diciamo così, giusta. L'intenzione era quella di andare a Rogito dopo l'estate, e dopo l'estate c'è stata la sorpresa, nel senso che avevo individuato un mutuo col cap, dopo l'estate non era più il 5,45 ma il 5,90, e le condizioni non erano più le stesse, e quindi ho avuto una serie di problemi per cui ho dovuto rimettermi a cercare un'altra soluzione, perché quella non era più praticabile. Qui tra l'altro era intervenuta anche Mutui Online facendo presente che la proposta che mi era stata fatta valeva 6 mesi, quella prima dell'estate, però la banca ha inventato 1000 scuse e alla fine il mutuo non me l'ha dato. I dialoghi sono trasordi in questi frangenti, sì, Claudio, veramente. Mi hanno chiesto dei soldi che mi dà mio suocero per coprire la differenza, dovevano passare sul conto corrente della banca, cioè ho 46 anni, queste cose non le ho mai sentite, nella vita c'è sempre da imparare. Claudio, che punto è quindi adesso con l'acquisto della sua abitazione? Adesso abbiamo provato con un'altra banca, che sembra che la situazione sia buona, però è chiaro, le condizioni non sono più quelle di prima dell'estate. No, infatti, no, e soprattutto magari se va a rogitare fra un paio di mesi, che sa che non cambino ancora una volta, Claudio, sia molto rigido con il direttore di banca, glielo dica, guarda, mi è già successo una volta, volta, vedi anche tu di non farmi delle sorprese. No, infatti, perché gli spread purtroppo sono cambiati, i tassi sono cambiati e le condizioni sono diverse. Infatti, quindi, vabbè. Così. Claudio, grazie, grazie. Grazie a voi. Roberto Anedda, complimenti intanto per aver chiamato anche la banca ad un comportamento corretto. Quindi non è che vi interessi solamente intermediare e vendere a tutti i costi. Ringrazio Claudio per essere rimasto cliente fedele, ma è quello che facciamo con tutti i nostri clienti. Noi riceviamo mediamente 400 richieste di mutuo nuove al giorno, quindi complessivamente sono veramente più di 400 al giorno. Nei periodi d'oro quante ne ricevate? Ricevevate? Nei periodi d'oro anche 500. Vabbè, no, adesso, non, ovviamente. Però no, non per va adesso, male. Diciamo che nel momento in cui c'è più difficoltà a trovare delle condizioni buone o una banca disposta a fare il mutuo, servizi come il nostro attirano più persone. Poi questo possiamo dire che sia sbagliato, che in genere la gente dovrebbe utilizzare servizi come questo, che poi sono gratuiti sempre, proprio perché gli agevolano la scelta. Però poi, come sempre si sa, la necessità rende l'uomo più scaltro e attento, e quindi ci sono più persone che via via si affacciano a questo tipo di servizio, per certi versi nuovo, rispetto al normale contatto con la banca. E quindi questo un po' ci, almeno per il momento, ci tiene al riparo, almeno in parte da quella che è la contrazione di mercato. Ma se continua la situazione, è ovvio che anche noi vedremo delle contrazioni di flussi, e situazioni come quella di Claudio purtroppo dopo l'estate ne abbiamo viste tante, proprio perché in tanti avevano cominciato a selezionare un mutuo, poi ovviamente hanno detto beh, aspetto l'estate, poi mi porto avanti. Nel frattempo, diciamo un po' canzi, purtroppo è cambiato ad agosto, sappiamo benissimo quello completamente che è successo, il mondo in maniera quasi inaspettata, e quindi anche per tutti i clienti e diventa difficile. Noi siamo tuttora a lavoro con tanti per trovare poi comunque una soluzione adeguata o riuscire a fargli assegnare condizioni predeterminate prima, che però obiettivamente in alcuni casi è difficile, o se non altro guardando tra le offerte delle tante banche disponibili trovare quella che può essere una soluzione adeguata che comunque aiuti il cliente. Carmine da Bari, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, il mio problema è ho contratto un mutuo, mi sentite? La sentiamo benissimo, Carmine, anche troppo. Se può abbassare la sua radio, ci fa una cortesia. Sì, la ringrazio. Allora, 2007 ho contratto il mutuo, tasso fisso, sto pagando il 5,90. La rata è di 556 euro, è troppo alta, ho provato a rinegoziarla e me l'hanno negato. Però mi sono rivolto ad altri istituti e siccome è un mutuo per liquidità, non me l'accettano, a meno che non sostengo le spese di nuovo notarili. È una sorpresa. Bella fregatura, vero? Carmine, che dobbiamo fare? Allora, intanto, non era un mutuo finalizzato all'acquisto di una casa, ma era un finanziamento in sostanza per un po' di liquidità. Però qui lo spread sui mutui immobiliari abbiamo parlato, ma in realtà tutto il panorama del credito è diventato più oneroso. Perciò, Vitolops, cosa possiamo suggerire al nostro ascoltatore? Di tenere duro, riuscire a pagare quei 5,90, peraltro un tasso su questo finanziamento come poteva essere giudicato, visto che lui vorrebbe abbassarlo? Ma più che altro sì, è un tasso abbastanza caro e poi tra l'altro lui nel caso poi spostasse il mutuo su un'altra banca dovrebbe pagare poi le spese notarili, quindi deve un po' cercare di fare il conto proprio della differenza tra gli oneri notarili e quanto ancora di interessi deve versare, proprio prendere la calcolatrice in mano. Fermo restando che sta pagando in questo momento un tasso abbastanza caro, al di là della logica degli spread che si stanno impennando. E però insomma deve anche farsi un po' di sangue amaro, perché probabilmente troverà un bel po' di porte chiuse in questo momento. Roberto Anedda, gli facciamo fare un preventivo su mutui online? Sì, anche. Purtroppo anche a proposito del discorso di prima, cioè sui segmenti di offerta che ricevono risposte più limitate, c'è anche quello della liquidità, proprio perché è un'altra finalità considerata più, tra virgolette, a rischio. Poi Carmine sarà il migliore dei clienti, ovviamente, ma qui stiamo parlando di valutazioni generiche e generali della banca, e quindi siccome rispetto all'acquisto prima casa è visto come una finalità potenzialmente più rischiosa, automaticamente viene prezzata in maniera anche maggiore rispetto all'acquisto. Quindi niente di strano che gli spread potrebbero essere ancora più alti di quelli che dicevamo prima per una finalità di questo tipo. Un tasso di 5,90 per il 2007, quando i tassi fissi erano arrivati anche a quei livelli, poteva essere anche sì, nel 2007 diciamo che forse ancora non era partita a razzo la situazione. Sì, però appunto per un mutuo di liquidità poteva essere un tasso adeguato. Ovvio che se fossimo in una situazione normale di mercato si troverebbe abbastanza facilmente da sostituirlo in meglio. In questo momento obiettivamente è difficile. Quindi purtroppo dobbiamo indicare al nostro ascoltatore di tenere duro. Non riesco a sentire Paolo da Piacenza, che voleva raccontarci che ha rinegoziato il suo mutuo da fisso, è riuscito ad ottenere un variabile con cap, pensa di averci guadagnato, ma sicuramente dipende ovviamente quando aveva ottenuto l'erogazione del tasso fisso, che condizioni aveva, che cosa ha ottenuto, evidentemente avrà fatto i suoi calcoli e non abbiamo nessun motivo di dubitare della verità, appunto della veridicità di quello che ci racconta, e tanti altri ascoltatori che non riusciamo ad accontentare, vi richiamo presto. Cari Vito Lopes e Roberto Nedda, grazie per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie. Naturalmente noi con Salva Danaio invece ritorniamo domani, vi anticipo che domani con voi c'è Valeria De Rosa, io torno lunedì, buon weekend a tutti.